Ancora sulla scuola, a quanto pare che si concentra lo scontro nel governo su cosa riaprire e cosa no in vista del Natale. Con la ministra Azzolina e un pezzo della maggioranza che spingono per un parziale ritorno alla didattica in presenza e il ministro Speranza più orientato sulla chiusura. I numeri intanto ci parlano di 43 ricoverati in più in terapia intensiva e 216 nei reparti. C'è poi tutto un fronte politico collegato all'emergenza che vede moltiplicarsi i segnali di apertura verso Forza Italia, con il ministro dell'Economia Gualtieri che ieri ha definito positiva l'apertura di Berlusconi e ha parlato appunto di una possibilità di confronto con gli azzurri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. È lunedì 23 novembre, sono le 6:32 minuti e ci siamo. Caro Emiliano che scrive già alle 6:24, mi sa che ha sbagliato persona o trasmissione, eh? Dice che egregio dottor Spezia, non sono dottore, Al mattino è meglio usare il caffè o il tè per una colazione, una buona colazione, scrive a Nicoletta Carbone. Le dico che qua senza caffè non campiamo, eh? Poi faccia lei. (3) 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, i messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Siamo sempre anche in diretta sulla pagina Facebook. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. E poi il resto della redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli e i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. In una giornata di mezzo è stato un fine settimana ancora una volta di riunioni, riunioni che proseguiranno perché oggi il ministro Boccia vedrà le regioni. Su cosa si ragiona? Si ragiona su quali criteri applicare nel periodo di Natale, cosa riaprire, cosa non riaprire e... Ma guarda un po', si sta pensando, non l'avremmo mai sospettato, di tener chiuse le scuole fino a dopo le vacanze di Natale. Ma guarda, c'è stato un momento nel fine settimana nel quale si stava pensando di riaprire gli impianti sciistici e tenere chiuse le scuole. E io non lo so, veramente. Vabbè, iniziamo con un po' un fronte un po' più allegro, se vogliamo. Crozza che imita il presidente calabrese Spirlì. Il genostrato vuol venire qui da noi come fossimo in guerra. Ma perché? Ma da noi non c'è la guerra. Però la situazione... Siamo noi che costruiamo gli ospedali già bombardati. Ecco appunto. È la nostra tradizione architettonica da decenni. Però scusi, non faccio ostruzionismo. In questo momento c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Allora il governo ci aiuta, sul serio, ci mandi un piano Covid se ce l'hanno. No, guardi che il piano Covid ve l'hanno già mandato a luglio. A chi? A lei credo, no? Cioè... A meno di certo, ma se me l'hanno mandato ignoro dove l'ho messo. E vabbè, Crozza che imita Spirlì. Grande polemica nel fine settimana anche sul vaccino, con il professor Crisanti che aveva detto voglio vedere prima i dati e poi semmai mi farò vaccinare. Coro di critiche contro Crisanti, a dirgli le verifiche vengono fatte attentamente da tutte le autorità delegate. Così ieri a Che Tempo Che Fa il ministro Speranza. ma grazie ai vaccini, nella storia dell'umanità, nella storia recente chiaramente, sono state salvate la vita a migliaia, direi milioni di persone, e quindi attenzione a dare messaggi sbagliati sui vaccini. Noi siamo alla vigilia di una campagna mondiale che sarà forse una delle più grandi che si sia mai viste. Burioni, secco Burioni. Speriamo, ricordiamoci che nel 2015 la nostra copertura vaccinale contro il morbillo era inferiore a quella del Ghana. Quindi dice, occhio a mandare messaggi sbagliati, che poi si finisce là. Galli. Ma io non solo mi vaccino a gennaio, ma le dico che mi auguro che possa iniziare presto una sperimentazione, una parte di una fase 3 di uno di questi vaccini presso il mio centro, e se non sarà previsto che il principal investigator del centro è in conflitto di interesse, se fa anche il volontario, io farò il volontario. Cara Flavia Perina, giornalista dell'Inchiesta e della Stampa, come stai Flavia? Buongiorno. Molto bene, voi buongiorno. Bene, tutto a posto. Di tutto abbiamo bisogno meno che dell'ennesimo confronto scontro tra virologi, epidemiologi e scienziati, soprattutto su una cosa delicata come il vaccino, direi. Che dici? Non c'è dubbio, ma bisogna anche pensare che sono le rockstar dell'anno, e le rockstar, sì, come si sa, sono litigiose e tendono molto spesso ad esagerare. Detto questo, credo che il caso Crisanti sia stato abbastanza ingigantito anche dai media, perché alla fine Crisanti ha detto: aspettiamo la validazione definitiva di questo vaccino, e quando ci sarà la validazione definitiva, ovviamente tutto sarà più chiaro. Al momento ha detto: io non voglio ragionare sulla base di comunicati tirati fuori dalle aziende. Insomma, mi sembra un ragionamento che poteva essere accettato, non lo è stato, perché in questo momento viene richiesta. Il vaccino è la luce in fondo al tunnel nella narrazione del governo, dei virologi e di tutti quanti, e quindi chi mette in discussione che questa luce in fondo al tunnel sia vicinissima viene immediatamente contestato. Sì. In realtà speriamo tutti che arrivi presto, speriamo tutti che funzioni, sì, che funzioni bene, però al momento la situazione è quella un po' che ha detto. Cara Flavia, io so con te di sfondare una porta aperta, perché noi su questo stiamo facendo una battaglia da mesi senza alcun risultato. Noi siamo il paese che ha tenuto le scuole chiuse più a lungo in assoluto, non vi dico in Lombardia, dove le scuole hanno chiuso 2 settimane prima. Siamo il paese che le ha chiuse prima, in questo periodo ci sono luoghi, lo raccontavamo, in Campania, nei quali i ragazzi sono andati a scuola per una settimana, per 5 giorni, addirittura tra le elezioni, l'apertura ritardata e via dicendo. E qua, come devo dire, purtroppo sospettavamo, andiamo ad un'apertura delle scuole che probabilmente slitterà a dopo le vacanze di Natale. Ovviamente parliamo dei licei, parliamo delle classi a partire dalla seconda media, però non se ne esce, cioè, sono tutti aperti in Germania, in Spagna, in Francia, e qua non riesce a passare questa cosa. Beh, è una situazione, a mio giudizio, scandalosa, e la ministra Azzolina è stata continuamente messa in minoranza su questo tema, e non si capisce per quale motivo si ritiene, ecco, ad esempio, che si può organizzare qualcosa di molto complesso come una rapida campagna vaccinale o altre cose complicate che sono state organizzate in questi giorni, gli ospedali da campo, la mobilitazione dell'esercito, e non si pensa di non poter organizzare un servizio di trasporto scolastico che non mette a rischio gli studenti. È una vicenda veramente che ci rende unici in Europa. Tenete conto che tra la prima e la seconda andata ci sono delle classi di studenti, migliaia di studenti che praticamente è un anno quasi che frequentano la scuola a stizziche e bocconi, come si o quasi per nulla, in alcuni casi quasi per nulla. Tenendo conto che siamo il paese penultimo nella classifica dell'abbandono scolastico, classico, cioè da noi peggio di noi fa soltanto Malta, credo. Quindi è un fenomeno importante. Senti Flavia, così facciamo arrabbiare un po' di nostri ascoltatori che sono docenti e che ogni tanto ci scrivono, eccetera, eccetera. Ci scrive un ascoltatore e dice: saranno gli insegnanti a spingere per stare a casa? E quindi dice, e poi ci mette anche l'elemento politico, il PD a voler chiudere le scuole, perché, come è noto, un pezzo dell'elettorato del Partito Democratico storicamente è proprio nel mondo degli insegnanti. Che dici? Guarda, qua bisogna essere molto seri. Gli insegnanti fanno parte sicuramente di quel pezzo d'Italia che nella crisi è più garantito di altri, perché sono tutto quanta la parte dei dipendenti pubblici, che ha delle conseguenze rispetto a chi è imprenditore di se stesso, alle partite IVA, ai commercianti, è una parte più garantita. Però io quello che ho visto anche nelle dichiarazioni delle associazioni presidi e di molti sindacati insegnanti sono continue sollecitazioni a dire: muovetevi, riapriamo, non si può andare avanti così. Poi che ci siano casi individuali di renitenza alla leva è possibile, ma non mi sembra che nel complesso gli insegnanti italiani non vogliano tornare a lavorare, tornare a farlo in sicurezza. Guarda Flavia, non so, perché in realtà il polso che ricevo dalle persone che ci scrivono e che fanno gli insegnanti, in parte ovviamente c'è chi vuol tornare, come è naturale che sia, e molti altri invece ci dicono: no, guardate che tutto sommato la didattica a distanza sta funzionando. Mi sembra in questo modo si perda un po' la percezione di quello che rappresenta l'assenza della scuola per questi ragazzi, che è un problema anche psicologico, sociale, ha tutta una serie di elementi che hanno a che fare, che vanno al di là dell'istruzione, al di là del fatto che tu faccia bene la didattica a distanza. Tanto non si può sapere se la didattica a distanza sta funzionando. Noi sappiamo dalle statistiche che c'è una larga parte del paese esclusa dalla didattica a distanza perché non ha i mezzi materiali per farla o non ha connessioni abbastanza veloci. Quindi noi sapremo come funziona la didattica a distanza tra 6 mesi, tra un anno, quando si capirà questa catastrofe educativa, che cosa ha portato nell'istruzione delle persone. Tendo ad escludere che un ragazzo delle medie possa avere lo stesso tipo di istruzione e formazione con la didattica a distanza, magari in un paesino dove la connessione va e viene, rispetto a quello che aveva in presenza. Quindi questo secondo me è proprio un ragionamento che non sta in piedi. Probabilmente in alcune aree del paese, le aree più connesse, le aree dove c'era anche più benessere, più ricchezza, forse al nord, la didattica a distanza può essere un sostituto decente, ma nella stragrande maggioranza del paese questo non succede. Ci scrive Matilde, dice: sono un insegnante, voglio andare a scuola, il mio collegio docenti a grande maggioranza ha votato per la presenza, e ne siamo lieti. 349-238-6666 per le vostre voci, WhatsApp, audio, messaggi, SMS, tutto quello che volete. A proposito di grande organizzazione, il famoso piano vaccinale c'è, non c'è? Le siringhe, in settimana arriva la gara per queste siringhe, come sapete sono particolari perché devono essere precise, estremamente precise. Renzi: posso permettermi di dirle che in Italia non c'è un Superman che può fare insieme tamponi, banchi a rotelle, già sta storia di banchi a rotelle secondo me è un po' discutibile, vaccini. Io personalmente preferirei, mi sentirei più tranquillo se ci fosse una gestione del vaccino come quella di Angela Merkel, che chiama giustamente l'esercito tedesco a dare una mano in questo momento. Ed era ospite a mezz'ora in più. Tutto questo si porta dietro la vicenda politica, perché l'avvicinamento tra Forza Italia e la maggioranza è nei fatti, confermato ieri anche da una nota del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che dà la sua disponibilità ad avviare il confronto, questione che apre tutta una serie di altri fronti. Un fronte interno evidentemente al Movimento 5 Stelle, che già ha diviso tra ala governista, lo so ragazzi, stiamo facendo un po' di sembra quasi teatrino della politica, però poi tutto questo ha anche un impatto sulle decisioni che vengono prese a valle dalla maggioranza. Il Movimento 5 Stelle un po' diviso e soprattutto un centrodestra che progressivamente sembra spaccarsi, sembra sfaldarsi. Qualche voce su questo tra un attimo. Thank you. 4 mattino. Buongiorno, dottor Spezia. Mi scusi, le volevo chiedere, ma lei il caffè lo consiglia corretto Sambuca o grappa la mattina? Simone, anche ieri ci sono stati 550 morti, è inutile aprire. Pensate che mia figlia, che è in seconda elementare, accompagni di classe che non sanno leggere, perché praticamente da fine febbraio 2020 ad oggi avranno fatto 5 giorni di scuola in presenza. Ed eccolo qua, eccoli qua i risultati. E voglio dire all'ascoltatore che nessuno di noi sottovaluta i morti che ci sono tutti i giorni, così come non li hanno sottovalutati altri paesi che, come abbiamo ampiamente raccontato, invece le scuole hanno deciso di tenerle aperte. Sul caffè non mi pronuncio, il caffè è corretto, è una scelta, come dire, religiosa, Ok, ognuno si sceglie, se la mattina sceglie di prendersi il caffè corretto, si prende il caffè corretto e via. Le questioni politiche. Là è chiaro, come diciamo, l'avvicinamento di Silvio Berlusconi alla maggioranza, e rimane sullo sfondo questa vicenda della norma cosiddetta salva Mediaset, ossia quella che dovrebbe proteggere Mediaset dalla scalata di Vivendi, che comunque andrà al giudizio dell'Europa, e sulla quale si percepisce, io non so se una sorta di imbarazzo da parte del Movimento 5 Stelle, dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, costretti a difendere una norma che solo 2-3 anni fa, 4 anni fa, li avrebbe fatti gridare al terribile conflitto di interessi, al patto del quale non si può parlare, il patto nascosto. Sentiamo Roberto Fico a mezz'ora in più, il presidente della Camera. Non è così, perché Mediaset, come altre aziende, quindi non riguarda solo Mediaset, è un'azienda italiana, e come azienda italiana va tutelata magari da appetiti stranieri. Quindi ci sono delle strategie, ed è strategica come altre aziende, che... E oggi un'intervistona al ministro Patuanelli, al ministro alle attività produttive Patuanelli, al Fatto Quotidiano, che dice praticamente le stesse cose. Non è una norma salva Mediaset, per carità. Flavia, è abbastanza divertente questo aspetto della vicenda, posto che adesso ti vorrei interpellare su questo sfaldamento del centrodestra, che era un po' nell'aria qualche tempo e adesso sta arrivando forse al suo punto focale. Però è divertente questa storia della norma su Mediaset, Sì, ma io credo che tutti quanti gli attori di questa vicenda pagano l'errore capitale commesso all'inizio dell'emergenza. Era ovvio che all'inizio dell'emergenza sia le forze di maggioranza che quelle di opposizione avrebbero dovuto fare un grande richiamo alla solidarietà nazionale, sedersi insieme intorno a un tavolo, come è successo per lo più negli altri paesi, e concordare delle linee che avrebbero evitato tutto quello che abbiamo visto, lo scontro tra le regioni governate del centro-destra e il governo centrale, la contestazione sistematica delle mascherine e di ogni altro e di ogni altra misura dell'emergenza, eccetera. Non si è voluto farlo, si è arrivati al punto in cui lo si deve fare per forza, per una questione di numeri parlamentari, perché servono dei numeri più blindati in Parlamento per far passare i nuovi scostamenti di bilancio, i nuovi provvedimenti, e quindi si arriva a farlo nel momento peggiore, dopo aver rifiutato questo schema per tantissimo tempo, e lo si trasforma in una solita, il solito teatro italiano, col sospetto di scambi di favore, col sospetto che non sia in realtà un'iniziativa di solidarietà collettiva per salvare il paese, ma semplicemente un do ut des. E è uno spettacolo molto deprimente, ha degli aspetti surreali, forse divertenti come dici te, ma per me risulta soprattutto deprimente, perché penso che un paese serio fin dall'inizio avrebbe affrontato in modo solidale questa emergenza, badando un po' all'interesse generale di tutti, delle categorie, delle persone, degli studenti, degli insegnanti, e non si sarebbe ridotto in zona Cesarini a cercare un'intesa qualsiasi salvare la maggioranza da un lato, e in qualche modo sul versante di Berlusconi per mettere in sicurezza le imprese. Sì, un esempio su tutti: in Gran Bretagna Johnson ha portato il provvedimento con il quale varava il lockdown in Parlamento ed è stato votato anche dai laburisti, cioè passato praticamente all'unanimità. È un esempio di come si possono fare le cose, un esempio di come si possono fare le cose. Ecco, sul fronte del centrodestra, Flavia, però al di là di tutto questa questione segna uno spartiacque, oppure no? Oppure, come dice oggi, mi pare, Roberto Maroni, forse sul Corriere della Sera, dice: beh, ai tempi di Bossi le botte che ci siamo dati con Forza Italia non si contavano, poi siamo sempre tornati insieme. Ma sì, io penso che del centrodestra alla fine si farà di necessità virtù, accetteranno una qualche forma di intelligenza col governo di Silvio Berlusconi, puntando e poi soprattutto a candidature condivise nelle prossime amministrative, che sono importanti perché c'è in ballo Roma, c'è in ballo Milano, e quindi sia Salvini sia la Meloni non possono permettersi di arrivare a strappi definitivi. Si farà un po' di cerchiobottismo, alla fine si troverà un qualche tipo di quadra nel nome della prossima competizione elettorale. Io non credo alla lacerazione in quell'area, perché sia Salvini e la Meloni sono perfettamente consapevoli che strappare con Silvio Berlusconi li condannerebbe alla sconfitta, e Berlusconi è altrettanto consapevole che non ha più la forza politica per determinare il futuro del suo schieramento. Questo è mi pare un ottimo punto, Flavia. Allora, io prima di chiudere, oggi la puntata alle 8:30, il tema del quale parleremo alle 8:35 è un tema particolare. Abbiamo deciso nella settimana che poi porterà il 25 novembre alla giornata contro la violenza sulle donne, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, di dedicare una puntata alle 8:35 che ha un po' questo titolo. Il titolo è "Se l'è cercata". C'è un filo nemmeno troppo sottile, mi pare, che unisce due vicende di cronaca delle quali si è trattato molto sui giornali e non solo in questo periodo, e sono la violenza sessuale subita dalla ragazza che era andata alla festa dell'imprenditore Alberto Genovese a Milano e la vicenda dell'insegnante, insegnante d'asilo, le cui foto intime spedite al fidanzato hanno fatto di fatto il giro del paese, hanno portato al suo licenziamento. E questo filo, nemmeno troppo sottile, è un po' quello che si è sentito dire in giro da qualcuno, quest'idea "se l'è cercata", no? Come se una donna non avesse la libertà di andare ad una festa pur in quella situazione, aspettando, potendosi aspettare di non essere stuprata, molto semplicemente, o di mandare delle foto intime al suo fidanzato. È un tema che tratteremo a partire dalle 8:35. Vi voglio far sentire la voce della vittima della violenza sulla cosiddetta terrazza sentimento, quella di Alberto Genovese, che ieri ha parlato a Nonella D'Urso. Sentiamo. E la cosa che mi fa più male in questi giorni è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi la colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto. E ne ha parlato venerdì, se non vado errato, anche Chiara Ferragni. Questo fenomeno in cui la donna che subisce una violenza viene a sua volta colpevolizzata ha un termine ben preciso e si chiama victim blaming. È un fenomeno purtroppo super diffuso e io veramente l'ho notato in prima persona da tantissime persone con cui parlo quasi quotidianamente. Ed è fatto tantissimo naturalmente dai media, come vi ho detto prima, tantissimo dagli uomini, ma purtroppo tantissimo anche dalle donne. E c'è anche questo elemento, Flavia Perina, e anzi chiuderei con te, abbiamo veramente 30 secondi, un tuo spunto di riflessione, perché so che ne hai scritto anche abbastanza spesso in passato. Se l'è cercata è un grande classico italiano, diciamo, che non è mai stato superato dalla cultura diffusa, proprio perché è sostenuto anche in modo magari non aperto, però da una parte degli opinionisti, di chi fa l'opinione pubblica del paese. In Italia purtroppo una donna, per essere giudicata vittima, deve morire, deve essere Santa Maria Goretti, deve morire resistendo a una violenza o assassinata da qualcuno. Se non muore è soggetta al giudizio collettivo e generalmente al giudizio collettivo maschile, che dice se l'è cercata, chi gliel'ha fatto fare, ha messo la minigonna, è andata a una festa chiacchierata, si è messa in una situazione di pericolo e poi così va il mondo. Questa veramente è un'altra cosa che ci distingue da tutto quanto il resto d'Europa e del mondo civile, dove una donna è libera di fare cose normali come andare a una festa senza doversi sentire giudicata in questo. Purtroppo le donne molto spesso sono poco coscienti anche dei loro diritti. L'insegnante vittima del fidanzato, licenziata. Devo chiudere, Flavia, grazie mille. Siamo in chiusura, ci risentiamo dopo se volete intervenire. Beh, i numeri li conoscete.